Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. C'è un argomento dibattutissimo da alcuni giorni e in particolare in questa settimana lo sarà sempre di più, il probabile paventato aumento dell'IVA dal 21 al 22%, era già stata rinviata dal 1 luglio al 1 ottobre, data a cui mancano sostanzialmente poche ore. In attesa di decisioni governative vediamo di capirci qualcosa di più sui possibili effetti di questo aumento. Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, ben trovato, buona giornata. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. È un tema che ogni tre mesi qui riprendiamo perché ne avevamo già parlato a giugno in attesa dell'aumento di luglio che poi è stato rinviato e adesso siamo qui insomma alle soglie di un forse di un probabile rinvio, forse dell'aumento. Noi cerchiamo di capire con te che cosa potrebbe succedere. Sì, come hai detto te, ormai stanno diventando degli appuntamenti sempre più frequenti quelli di capire cosa accadrà alla vigilia di nuovi importanti provvedimenti che andranno sicuramente a coinvolgere le famiglie, quali appunto l'annunciato aumento dell'IVA che dovrebbe scattare proprio tra poche ore, esattamente dal 1 ottobre, con un aumento ipotizzato dal 21-22%. E certamente un appuntamento che ne hanno preceduti molti altri, e non solo quello dell'IVA, ma anche quello dell'IMU, che fino a pochi giorni prima, poche ore prima, non si capiva cosa veramente ci doveva attendere. Che cosa riguarda questo aumento? Cioè quale IVA aumenta, su quali prodotti, quindi che cosa dovremmo aspettarci? Beh, innanzitutto comunque bisogna capire che quando si parla di aumentare l'IVA sicuramente è un provvedimento che va a coinvolgere tutti ed è un provvedimento che noi riteniamo fortemente ingiusto perché va a discriminare anche quelle che sono le categorie più deboli. Perché, come abbiamo detto, l'aumento dell'IVA è un'imposta che normalmente la troviamo in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, che non riguarda solo i generi di consumo come possono essere quelli tecnologici, ma riguardano anche quelli dei farmaci, quelli alimentari, anche se qua comunque abbiamo IVA del 10%, dell'11% o addirittura del 4%, perché questa volta sembra che da aumentare siano un po' tutti. Però in attesa di capire veramente quali saranno nei dettagli questa nuova manovra che il governo sta per varare, bisogna certamente rendersi conto che con un aumento dell'1% poi ci saranno anche gli arrotondamenti per il prezzo che ormai noi in Italia siamo diventati e siamo dei specialisti, e comprendere come già da un calcolo che abbiamo fatto sicuramente per le famiglie ci sarà un maggiore sborso di oltre 200 euro all'anno per effetto appunto di questi annunciati aumenti, e certamente sarà capiteranno in un momento non certamente felice per le tasche degli italiani che ormai sono praticamente svuotate da tutte quelle che sono tutti i balzelli che ormai paghiamo ogni giorno. 200 euro all'anno, quindi più o meno quello che tante famiglie magari hanno pagato di IMU prima casa. Sì, infatti purtroppo ci troviamo da fare dei conti con una coperta che è veramente molto molto corta, però dobbiamo anche capire come il principio di aumentare le tasse o di istituirle in questo caso non è un principio che va ad aiutare chi è più debole, ma va a penalizzare tutti, perché di fronte a quelli che sono dei meccanismi che normalmente le tasse dovrebbero avere, da quelli di cercare di far pagare qualcosina in più chi ha i soldi e pagare qualcosina in meno chi non li ha, con questi aumenti certamente andiamo a comprimere ancora una situazione che è arrivata quasi all'esasperazione per gran parte delle famiglie, ma soprattutto andrà a ridurre quello che è il potere di acquisto delle famiglie e dei portafogli degli italiani, perché certamente questi aumenti andranno a contrarre ancora di più una situazione che è già drammatica, per cui i governi in questi momenti stanno valutando se appunto renderla applicabile o meno, perché sappiamo che quando i soldi diminuiscono, diminuiscono gli acquisti, diminuisce tutto, e quindi certamente non so se per un effetto di compensazione siano così matematici questi introiti che il governo dovrebbe contare di avere conseguentemente a questo aumento. Eh sì, perché prevede aumentando l'IVA che entri tot e magari entra meno, perché essendo aumentato il prezzo complessivo la gente magari compra meno, questo è l'effetto. Certamente i prezzi aumentano, le persone compono meno. Come abbiamo detto anche precedentemente, le persone, le famiglie in queste situazioni stanno inventandosi di tutto per pagare, per riuscire a arrivare a fine mese. Addirittura hanno cambiato l'abitudine a tavola, mangiano meno carne, meno pesce, si curano sempre meno, non fanno più prevenzione, stanno rinunciando un po' a tutto, alle vacanze. Quindi andare a aumentare ancora di più questo, in questo momento, dove a mio avviso l'unica ricetta sarebbe quella di incentivare i consumi anziché andarli a strozzare, certamente è un ragionamento che bisognerebbe avere molta cautela se poterlo portare avanti o meno, perché certamente, come ho detto, andrà a soffocare una situazione che è già arrivata quasi a collasso. Detto così dell'aumento 1%, fare un conto, voi l'avete fatto appunto, si arriva a 200 euro mediamente per famiglia, ma poi è, ne avevamo già parlato in un'altra occasione, una di quelle tasse che si pagano goccia a goccia, delle quali non ti accorgi, mentre l'IMU, per dire, la paghi in una rata sola o due rate, qui ne paghi magari qualche centesimo al giorno attraverso il gas, la corrente, la benzina e altri acquisti. Certo, la cosa peggiore poi non sarà l'aumento dell'1%, ma sarà poi gli arrotondamenti per eccesso che noi italiani siamo abilissimi a fare, perché conseguentemente non saranno anche i carburanti e le bollette tutte ad aumentare, ma poi noi sappiamo che, come tutte le cose, quando si tratta di aumentare i prezzi c'è sempre questo famoso arrotondamento ad eccesso di cui a noi in tutto il mondo non ci frega nessuno, per cui certamente la preoccupazione e l'allarmismo annunciato da tanti, compresa quella dell'associazione mia, dell'Adico, di partiti, quant'altro, a fronte di un provvedimento così che lo riteniamo molto molto delicato, io spero che si possa fare un ragionamento molto serio e capire se si può evitare o meno. Poi concludo anche dico che mi pare strano che ci siano delle situazioni in cui ogni giorno si apprende dalla cronaca questi sequestri della mafia, queste lotte all'evasione, queste insomma situazioni che sicuramente per me si può trovare benissimo delle risorse alternative, come per esempio anche lo spread, che nessuno ha il coraggio di dire, ma che il nostro paese sostanzialmente ha risparmiato quasi 11 miliardi nell'ultimo anno solamente di interessi, non siano sufficienti per evitare di poter aumentare via di un punto. Ho paura e temo che torneremo a parlarne nei prossimi mesi. Ho questa sensazione, faccio un profeta di sventura, spero di sbagliarmi. Ci ritroviamo tra un paio di giorni ancora con un altro argomento. Parleremo di contatori, perché c'è un'altra vicenda clamorosa da approfondire. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.